va. Lucia, oh, sto finendo la radio di Giampaolo, gli ho messo la lampadina nuova allo Smith, che era bruciata. Fate tempo in tempo a comprare la GBC, poi alle... più tardi, tanto devo scendere a Polottolo, se ci scendo io, già, è tuo lavoro. Io già devo andare, non c'è problema, devi andare apposta dalla me, se no vai tu, non c'è problema. No, devo scendere a Polottolo, se passo io, perché voglio vedere come è organizzato, se è tutto a posto, lì porto lo strumento, voglio vedere alcune cose, non si sa mai ci sia qualche altro problema. Perché qua è una scheggia, qua minchia, funziona veramente bene. Quel trimmer a posto gliel'hai messo? Già, a posto, nuovo gliel'ho messo. Io l'ho staccato, l'ho comprato, gliel'ho messo nuovo. Però adesso lo sto adottando un altro sistema, dove faccio i lavori io, come fanno le aziende professionali, metto il mastice, così nessuno tocca niente. Se mi riportano la radio che l'ho toccata io, c'è il mastice. Se toccano il mastice, io non faccio più radio. Mettiti un goccio di cera, Clara, sciogli un goccio di cera sopra, che la cera è più facile uscire. Non sto lì a cagarmi le mani niente, mi sono comprato la cera lacca. Capito? Mastice, cera lacca, quella lì. E ne metto la cera lacca. Al momento in cui trovo una radio che è cerata da me e che non è toccata la cera, posso anche rifarlo. Se la cera è toccata e che l'hanno cavato, non ne voglio più sapere. Vengono quelli sticchi per le... quelle che si usano anche per aggiustare la canna da pesca, ce li ha presenti, quelli sticchi delle pistole elettriche. Quelli lì, prendili, sciogli con un cerino appena appena, picchi, li metti a fare e via. C'ho la pistola proprio io, la pistola quella a caldo, capito? A me però c'era la carta rossa, io me la sono comprata bianca per essere diversa dagli altri, c'è trasparente bianca e rossa, me la sono comprata bianca, ho messo il trimmer nuovo, l'ho cerato, tutti i passaggi che ho fatto li ho cerati e poi ho cerato anche la lampadina dello Smith, c'era una lampadina blu che non si vedeva niente. Ho messo la sua lampadina originale, col portalampada originale, che non ce n'era, io ce l'avevo, quel gommino verde che va a incassare nella sua sede, e poi ho tutto pulito dentro e fuori. Adesso lo appoggio al porto e vediamo un po'. Questo ancora funziona, lo sto usando, questo qua. Sta andando veramente bene, dei picchi di modulazione, in FM c'è da 50 watt, ne ho dato 100. Manda laterale 130 modulati e in AM 100 modulati, anche di più. Prima ne aveva 40, poi andava in picchi negativi, era tutto completamente spostato. E beh, come lo stai usando tu si capisce, ma a volte Giampaolo quando parla lui non si capisce cosa dice, perché si mangia i baraoli, vabbè, da come lì dentro, allora fa così e non si capisce a volte cosa dice. Ma queste radio vanno usate in questa maniera, parlare piano piano, 30 cm al microfono, sono delle radio eccezionali, se uno le sa usare bene, questa adesso è un po' più spinta di LC, la radio era completamente chiusa, l'ho messa al 40%, prima era al 10%, mi chiede a metà, perciò va bene così. Ottimo, io mi sto ascoltando, ma ho chiesto io, non sono rimasto sino a mezzanotte e mezza, ho finito tutto, mi sono lasciato solo la lampadina da mettere, gliel'ho messa poco fa. Ho fatto anche delle prove con Giampaolo e va veramente bene, per come era, guarda, secondo me non la riconosce neanche quando gliela porto. Ragazza, quella più piccola rimane del 140, la stessa stata. Con gemelli. Precisi identici, all'interno c'è la scheda dei 6 metri, praticamente il 140 va da 50 kHz a 32 MHz, mentre il 680 va da 50 kHz a 50 MHz, basta, cambia solo l'interno, l'interno, c'è cioè qualche cosettina in più all'interno, anche l'amplificatore d'antenna che 140 non ha, però come coso è uguale, preciso identico, sono gemelli, doppio WFO, gemelli, le memorie sono uguali, l'ho tutto memorizzato perché non c'era manco la memoria, erano tutte incasinate. Nell'1 c'era il 5, nel 5 c'era il 10, nel 10 c'era il 12 e così via. E l'ho tutto memorizzato, pronto all'uso. Se dico sì, si muri. Eh già. Io faccio quello che posso e quello che so fare. Poi, Giampaolo è una persona molto, molto fidata, molto attenta. Siamo già sentiti, ma ha detto tu me lo porti, metti le posizioni come lo stai usando tu. E io non tocco niente, dopo il gioco di pulsante per spostarmi in FM e in onda laterale, basta. Non deve toccare niente, proprio nulla di nulla. Appena lo accendi è già su 40 volte, cosa che il mio appena lo accendo 140, se a caldo è 40 volte, appena lo accendi a 20. Devi aspettare almeno mezz'ora che salga a 40 watt per stabilizzarsi. Questo appena lo accendi è stabile a 40 watt. Meglio così, va bene. I picchi sono buonissimi, una canonata. Bene, bene. Gesù Matta. Che l'avevo promesso. Ne ho fatto tante, ne ho fatte a Antonio, ne ho fatte a Luca, ne ho fatte a altra gente, mi hanno portato 4,40. Adesso devo cercare di mettere a posto quello di Dino se trovo i pezzi, perché è veramente un peccato quella radio. Lì c'è la scheda rotta, però sto cercando il continente su internet, da tutte le parti. Se trovo la scheda, gliela compro, gliela piazzo e poi sistemiamo anche quella di Dino, ma lì ci vuole un po' più di tempo, perché lì si tratta di pezzi di ricambio. Qua era solo regolazioni, messi a punto e così via. Per fare quello di Giampaolo mai ho chiesto niente. Sono dovuto andare a Chiaramonti e farmi dare il datore spettro. Domani glielo riporto, intanto sono reperibile domani mattina, faccio un salto a Chiaramonti e glielo riporto a casa. Perché era completamente tutto fuori, tutto incasinato. Come tu lo sentivi impattato, non era solo modulazione. Sembrava quasi fuori frequenza, capito? C'erano 200 Hz di spostamento tra un canale e l'altro. Non lo so, ma vuoi anche come ti abusato, boh, non lo so, che parla così, capito? A volte lui si lascia andare a fare una cosa, ma non si comprende nulla. Nel 60 bisogna usare una maniera dove chiaramente tutti abbiamo imparato ad usarlo, non mi hanno insegnato ad usarlo a questa distanza, con molta calma, e la modulazione deve essere bella, limpida, forte, però allo stesso tempo deve essere chiara, altrimenti è un casino già, capito? Non fa. E così dovrebbe essere. Capa. Adesso vediamo, allora lo sta usando nel MC60. Sì, lui c'è nel MC60 allora. No, pensavo che fosse uno di quei microfoni amplificati che aveva lui. Pensavo che fosse qualche altro microfono. No, non pensavo che fosse il MC60, sinceramente. Era un po' chiuso, era tutto, te l'ho detto già, ma l'ha messo veramente male. Io come l'ho aperto mi sono accorto tutti i cavi legati a scorci, li ho tutti tolti completamente, rifatte tutte le linee nuove, anche quella dell'alimentazione della lampadina allo smitter, era fuori sede, da sotto, non si vedeva niente. Quindi gli ho messo il suo gommino, gliel'ho innestata dentro, lampadina bianca, pulita, originale. No, adesso è a posto, gliel'ho tutta pulita dentro con la trilina, tutte le piste, tutto. Risponde veramente bene, anche perché gli ho staccato completamente la mia, il 430, e gli ho collegato la T250, che è l'accordatore Rosmetro-Vattimetro della Kenwood, quindi ho fatto tutte le regolazioni in base allo strumento suo e quindi è perfetta. Ho fatto le comparazioni, allineamento di Smith, allineamento di tutto. Tutto completamente rifatto perché era già un po' me l'ha giurato e lo credo, lui non ha mai toccato niente, l'ha comprata così, ma io già sapevo di chi era quella radio e quindi avevo sinceramente paura a prendere una mano, però ce l'ho fatta, ci ho lavorato 4 ore ieri, sino a mezzanotte e mezza, e poi sono rientrato al lavoro, l'ho finita poco fa, adesso l'ho tutta chiusa, pulita e ci sto trasmettendo. Vabbè, la volevano vendere quella radio lì, ma non l'ho presa io perché sapevo che non pompava. Già, non pompava perché quando ci metto le mani dentro e tu non hai un riferimento che conosci, io devo solo attaccare uno strumento giustamente per, ma non attacco strumenti, non per disprezzare niente a nessuno, per carità, ci mancherebbe altro, ma io lavoro solo con la T250 come strumento, oppure con quello della Magnum, che Sandro ieri è venuto, ha portato un'altra cosa sua, perché dice che da lui lo strumento non segnava quella, io l'ho attaccato quello della Magnum, la MN2000, che è grande quanto è, più grande del 140, come strumento, e hanno dato proprio il, ed è un 2 kW di strumento con commutatore d'antenna, rosmetro, wattmetro, grandissimo, l'ho attaccato quello, ho detto guarda se sta andando, dice ma nel mio non sale, ma qua sale, vuol dire che il tuo strumento non serve a niente, ma strumenti della ZG, sono strumentini per poter usare i baracchini, ma qua già quando inizi a usare queste radio devi dare una linea di perfezione, e c'è sempre quei 5, 10, anche 50 watt di differenza, e non va bene, quindi io uso solo i miei e basta già, soprattutto quello della Kenwood, la T250, che è il suo strumento di linea e quindi mi dà alta fedeltà, capito? Non puoi fare una regolazione con lo strumento, io ce l'ho quello della ZG, ma non lo uso mai, ce l'ho attaccato a un baracchino e basta, ma giusto così, per un controllo. Ma per avere strumenti buoni, a fare queste tarature ci vogliono strumenti professionali, se no è bescio. Beh, così è. E poi questi della ZG si sballano subito, boh. Io ci ho... Ora allora, mi trovo un altro accordatore, però come accordatore sulla scorsa lunga vedo c'è una cosa che se vuoi accordare se è un SI, un SE, invece che accordare provi a accordare niente, non accordo. Ma vedi, il TM1000 è già uno strumento un po' diverso perché c'è l'accordatore, giusti un pochino e riesci a giostrare, ma già un HP201, un HP202, questi strumenti rosmetrovati, metrovati, non servono a nulla, non servono a nulla già, non ti danno fedeltà quando fai queste regolazioni, poi con un baracchino, ripeto, quello che sono 8 volte, sono 7, si abbiglia a luci, se c'è un E2 stazionale, te ne segni un E3, si abbiglia a luci, ma qua quando tocchi i trimmer devono essere giusti, perché se sbagli la regolazione fai casino, capito? Fai casino, ho deciso di andare in contemporanea con i picchi di modulazione, infatti devono avere la stessa spinta dell'LC, perché se tu li metti in contraddittoria vanno in contrasto, uno sale, uno scende, la modulazione non va più bene. Quindi devono essere giusti, i picchi devono essere giusti ai watt. Se devi avere 50 watt di picco da 0 a 50, il picco deve essere da 0 a 50, non da 0 a 60, se no va bene. So che è così perché per chi si dice per lo strumento si c'è poco da fare. Allora, io da ZG ti posso dire che strumenti non me l'ho piaciuto, anche come tu prendi un commutatore d'antenna, io un giorno mi sono spaventato, quello sto commutatore a 4, bellissimo, H5, l'avevo trovato su eBay, un'altra la scatola, 25 euro, l'ho comprato, l'ho volato, non mi serve, lo prendo, comincio a collegarmi tutte le antenne, arrivo un pomeriggio, accendo tutto, inizio a commutare, lo guardo 30 mutto, 9,50 mutto, aggiunto no, siccome il giorno prima avevo fatto quella pioggia grossa, ho detto qua è successo qualche casino, sono diventato guarda bianco, comincio a guardare, a fare, sai come ti viene l'ansia, cazzo, no, qui, là, mamma mia, ecco l'antenna dal commutatore, inizio a mettere la radio per radio, diretta, ricezione, ma vado a dolore, notte, tutto a posto. Come vuoi vedere che è andata in corto? Sono attaccare l'antenna, ma oppure c'è ancora il giardino? Che a me ha fatto la stessa cosa, nuovo, è comprato nuovo, da ordinato da Fusara, messo a casa, invece che le antenne io l'ho usato per commutare gli apparecchi, perché io ho tre stazioni per commutare una all'altra, lasciavo tutto attaccato, lo facevo per commutare via, capito? Li facevo le tre gli apparecchi. Beh, fatto sta che andavo alla freccia fondo scala delle stazionarie, cazzo, ho detto qua sta succedendo qualche cosa, ho guardato, ho provato da solo e andavano bene gli apparecchi. Attaccavo il commutatore e andavo di nuovo male. Ho provato a rifare tutto quanto, ho saldato, ho rifatto l'ispezione, la stessa cosa. E mi ha detto praticamente è così. Cioè io sono anche alla Fusara, ma non è possibile, è nuovo, io l'ho aperto, gli ho detto Antonello, l'ho aperto, le alette ce le ha tutte a posto, perché pensavo fosse qualche aletta spostata, siccome è comodo, tattata si sposta, e invece no, era proprio difetto di fabbrica. Sì, sono tutti difettosi, sì, per carità di Dio, mai più. L'ho preso, sto c'è aperto la finestra, l'ho fatta volare, l'ho ejecutato, l'avrei ancora buttato nel giardino tutto a pezzi, ma per carità di Dio. E mi sono comprato quello della Proxer, il computatore della Proxer A4, tiene 500 watt, e faccio la stessa cosa come fai tu. C'è l'antenna attaccata dalle 4 uscite, commuta 4 radio, quindi con la stessa antenna 4 radio, 140, 440, 430 e si 80. Se c'ho anche io si 80, capito? Mentre invece quello grande, l'FT950, dice l'antenna HF quadro in banda, e quello lavora da solo a linea diretta. Però quello, guarda, mi sta facendo un lavoro, e addirittura ne ho un altro accoppiato a tre vie che mi commuta con la stessa antenna, l'ho punteggiato, con la stessa antenna mi commuta tre baracchini, sempre con la Tox, ne ho preso una 4 e una 3. E avevo una cannonata, tu le attacchi l'amplificatore, lui va benissimo, tutto a posto. Ieri li ho cambiati tutti, ho completamente spostato tutte le antenne sul tetto, mercoledì sono sceso alle 7 di sera dal tetto, montato direttiva, quella che era senza rotore, la verticale che c'era sul lato strada l'ho portata all'interno, altro cavo di discesa, ho finito tutto, perché poi inizia il tempo brutto e non voglio avere problemi, e adesso è tutto a posto, tutto. Tu immaginati, con l'amplificatore io non uso manca il correttore, 1-1 ho di stazionarie senza correttore, e 1-1 c'è con il correttore, 1-1 senza correttore, perfetto. Non c'è duca più nuda già, finito, lavori, tutto a posto. Ti stai addormentando, dai, addormentati, ci sentiamo dopo. Qua, scusa ma mi sto giocando davvero. Ci sentiamo più tardi, là. Ciao, ciao, buona serata. Ciao, già, lo sai, io ti capisco. Ci sentiamo più tardi, ciao. Oh, Vulcanino, c'è qualcuno in attacco?